Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Artiness è una startup del settore medicale che si è specializzata a partire da immagini cliniche, come per esempio la TAC, nella ricostruzione tramite rendering olografico 3D e 4D dell'anatomia dei pazienti. Se in altre parole, fino a ieri un medico poteva avere a disposizione tante sezioni, diciamo così, di un organo, per esempio per pianificare un intervento chirurgico, oggi quello stesso medico potrebbe avere a disposizione un modello virtuale tridimensionale, dettagliato e facile da manipolare, che galleggia sotto forma di ologramma sopra il paziente mentre questo sta sdraiato sul tavolo operatorio. Del lavoro fatto da Artiness parliamo con Filippo Piatti, che è CEO e co-founder della startup. Buonasera Piatti. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti, grazie mille. Allora, raccontiamo un po' per cominciare come funziona questa tecnologia, a partire da quale tipo di esami medici siete in grado di ricostruire questi modelli tridimensionali. Io forse qualcosina ho già fatto intuire. Filippo. Assolutamente, hai già introdotto molto bene la tecnologia. Artiness effettivamente è una piattaforma software tecnologica che permette di tradurre i dati medicali del paziente in modelli tridimensionali. Questi dati medicali sono i dati medici che vengono acquisiti come standard durante la fase di analisi di una patologia e di diagnosi, come le TAC, risonanze magnetiche, ultrasuoni e quindi ecografie. Queste, come hai anticipato tu, creano delle immagini bidimensionali del corpo, le stesse che vediamo anche ad esempio durante le ecografie. Creano delle fette all'interno del corpo, quello che permettiamo noi con i nostri software di tradurre queste immagini dell'interno del corpo in modelli tridimensionali, che poi visualizziamo e permettiamo di visualizzare al medico sotto forma di ologrammi con dei visori che restituiscono quindi una visualizzazione, una navigazione all'interno dell'organo olografica calata all'interno della stanza dove si trova quella persona, che può essere ad esempio appunto la sala operatoria durante l'operazione. Queste immagini tridimensionali, questi ologrammi sono poi manipolabili, so che li riuscite anche a ottenere molto rapidamente, cioè il tempo di elaborazione è molto breve. Assolutamente sì, un tempo di elaborazione che attualmente è nell'ordine di minuti o poche decine di minuti, quindi permette una risposta anche rapida di questo sistema, che può essere visto un po' come l'evoluzione degli ultimi anni rispetto a quello che è stata la visualizzazione di immagini attaccate al muro nella stanza, certo, del medico. La poi mitica lastra sulla lavagna luminosa. Esatto. No? Ecco, esatto, da lì che si poi è andati avanti. Si è andati avanti, si è passati un po' per la stampa 3D, che è un utile supporto per poter toccare l'organo in plastica del paziente, fino ad arrivare nella nostra visione a un organo olografico che permette delle manipolazioni decisamente più semplici e molto più efficienti. Quali sono quindi complessivamente gli ambiti di applicazione? Allora, gli ambiti sono molto diversi tra loro. Quello nel quale ci stiamo muovendo attualmente è un ambito di pianificazione chirurgica, quindi dotiamo l'equipe medica che poi dovrà andare ad effettuare l'intervento, composta nel caso ad esempio di interventi sul cuore dal cardiochirurgo, dal cardiologo, dal radiologo, dall'anestesista. Dotiamo queste persone dei visori con la visualizzazione dell'organo del paziente che dovrà essere operato e compiono delle pianificazioni dell'intervento per prepararsi al meglio rispetto a quello che poi vedranno in sala operatoria. Il secondo campo di applicazione che stiamo sperimentando è un supporto diretto in sala operatoria, ovvero le stesse persone che hanno pianificato l'intervento poi entrano in sala con lo stesso visore, con la stessa visualizzazione olografica e hanno un supporto diretto in alcune fasi attualmente dell'intervento con una sovrapposizione uno a uno sul corpo del paziente dell'ologramma. Questo permette ad esempio l'identificazione più semplice di alcune strutture anatomiche come dei vasi sanguigni che ovviamente sarebbero nascosti alla vista del medico e sono cercate attualmente con delle tecniche un po' sperimentali o indirette, quindi si fidano ad esempio della posizione delle ossa, di una conoscenza pregressa dell'anatomia, che ovviamente non può funzionare in tutti i casi. In ultimo, diciamo che una grande potenzialità della tecnologia è anche proprio nell'ambito della formazione, quindi nel trasferimento di informazioni, che siano da medici esperti verso specializzandi, studenti universitari, o verso il paziente stesso. Chiarissimo, mi pare in realtà che ci siano anche applicazioni, voi ne parlate, insomma, nell'ambito del marketing. Assolutamente sì, riusciamo con la nostra tecnologia a rendere più semplice anche la comprensione per i medici stessi dell'utilizzo di nuove protesi, di nuovi dispositivi, del rapporto che hanno questi dispositivi con il corpo, perché ognuno ovviamente ha una funzionalità diversa e ha un impatto diverso sul corpo del paziente. Quindi lavoriamo a stretto contatto con aziende del settore che con noi sperimentano questa tecnologia come nuovo portale, diciamo, di coinvolgimento del medico. Filippo, a che punto siete dello sviluppo di questo progetto? Allora, attualmente siamo in una fase di validazione clinica, quindi di quantificazione del beneficio, e lo stiamo facendo con dei partner ospedalieri sul territorio italiano ed europeo. E siamo in cerca di altri partner ospedalieri che possano supportarci in questa fase di validazione. State anche lavorando su degli ulteriori sviluppi, ulteriori applicazioni? Assolutamente sì. Tra i tanti, uno che ci è particolarmente a cuore è uno sviluppo real time in sala operatoria, quindi affinché l'organo possa adattarsi in tempo reale a quello che sta succedendo in base all'intervento del chirurgo. Senti, ma un domani questo vuol dire che uno potrebbe con un robot chirurgico operare un ologramma mentre il robot opera la persona? Perché no? Perché no? Perché no? Perché assolutamente. No. E allora, grazie Filippo Piatti e avanti così. Grazie a tutti e buonasera. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata anche da parte mia.